Questo lavoro deve essere considerato dai musulmani eruditi nel fiqh, del rito d'adorazione, come un abbecedario per principianti e novizi. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tutimmu salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La lode tutta appartiene ad Allah, per grazia del quale si realizzano le opere buone. E benedica Allah, la nostra guida e il nostro maestro di vita, Muhammad, il profeta illetterato, la sua famiglia e i suoi compagni. E la lode appartiene ad Allah, padrone e signore di tutto ciò che esiste.